Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 17 novembre, benvenuti di nuovo a tutti i nostri teleradioascoltatori su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città e che va in onda un'ora al giorno, tutti i giorni, su Teletricolore, Radio Città Fujiko e Lepida TV. Io sono sempre Caterina, con Antonella Cortese alla conduzione di questo programma. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, lo sai Antonella, anzi me l'hai detto tu, che a Parma c'è una novità, ovvero un giardino che accoglie figli e genitori al carcere di Parma che si trova in via Burla. E questo giardino si chiama Per Ricominciare ed è uno spazio all'aperto chiaramente per l'incontro e il gioco pensato a misura di bambino e anche a misura di famiglia chiaramente. E questo è il frutto della edizione 2018 di Parma Facciamo Squadra. E infatti si sono chiesti gli ideatori di questo progetto, ma se ogni bambino che ha un papà, un nonno, zio in carcere potesse vederlo, incontrarlo senza sentirsi davvero all'interno di un carcere, senza vedere le sbarre, senza dover stare fermo intorno a un tavolo con le sedie fissate al pavimento. Ecco, a Parma c'è chi ha provato a sognare tutto questo e ha coinvolto la città perché potesse farne parte, ognuno potesse fare il suo. E questo sogno oggi è diventato realtà e l'istituto penitenziario di Via Burla ora ha un'area verde che è diventata accogliente e fruibile, come attraverso uno spazio attrezzato con 8 gazebi e tavoli che permetterà ai detenuti di incontrare le famiglie, ciascuna sotto il gazebo scelto, e giocare all'aria aperta con i loro bambini. Quindi si tratta di uno piccolo scampolo di normalità all'interno del carcere e rappresenta una opportunità speciale anche in una realtà così difficile da capire per un familiare, soprattutto se bambino. Quindi per ciascuno, anche per poterne usufruire, sarà una grande gioia. Guarda, sai questa notizia quanto mi faccia felice, proprio perché io, abitando a Parma, il carcere lo vedo, non è lontano da dove sono. Ed è una storia a lieto fine, ma anche un grande esempio di civiltà. E soprattutto perché ci sono i bambini, sempre trascurati, e invece adesso hanno uno spazio per poter condividere la gioia di vedere i genitori. Certo, infatti come dici tu, finalmente un progetto che è dedicato ai più piccoli e al loro benessere, affinché davvero l'essere bambini non sia mai un peso. Cioè, perché un bambino si dovrebbe sentire in colpa se il proprio genitore, parente o nonno è in una zona, in un periodo insomma di detenzione? Questo non è giusto. E questo è anche il claim della campagna, affinché l'essere bambini non sia mai un peso. Questa campagna che ha permesso di realizzare diverse iniziative per i più piccoli. E come dici tu, una storia a lieto fine, realizzata grazie all'impegno delle associazioni, alla generosità dei cittadini e anche ovviamente delle imprese e al coordinamento del Centro di Servizio per il Volontariato Emilia Romagna. Come sappiamo tutti, perché certe cose prendano forma ci vuole il benestare della direzione penitenziaria, no? Eh sì, perché l'idea di questa squadra ha incontrato la progettualità dell'Istituto Penitenziario di Parma e anche la sua disponibilità. Ma nulla sarebbe stato possibile, questo davvero lo devo dire, senza la tenacia dei volontari e dell'associazione Per Ricominciare, che pensa da più di 20 anni collabora col carcere offrendo un supporto affettivo e materiale ai nuclei familiari di cui stanno affrontando la detenzione. Per i bambini all'interno del carcere l'associazione gestisce anche il laboratorio Il Gioco, in convenzione con il Comune di Parma, e i numeri sono molto alti, sono più di 1200 ogni anno i piccoli in visita al carcere. Si tratta di bambini e ragazzi che vengono a trovare i familiari e lì trovano un posto per giocare, uno spazio morbido, diciamo, che vuole attenuare anche l'impatto traumatico del carcere. E con una stanza colorata dove operatori e volontari accolgono le storie, le difficoltà e soprattutto ascoltano i bisogni. E quindi il giardino Per Ricominciare riprende esattamente questo spirito, cioè rimettere al centro i bambini e il loro benessere. Presto sarà completato dall'istituto penitenziario grazie anche alla cassa delle ammende. Quindi un grazie speciale va alla direzione, come dicevi prima Antonella, all'area educativa e a tutti i volontari che hanno permesso questa bellissima iniziativa. Rimaniamo con Elton John e fra poco ci rivediamo sempre con Antonella. La canzone più bella di Elton John, almeno per me, è Candle in the Wind, una delle canzoni più conosciute anche, un brano scritto nel 73 e pensate, fu ispirato alla bellissima, famosissima Marilyn Monroe, che purtroppo è morta prematuramente, quindi questo brano è dedicato a lei. A fra pochissimo, sempre su Liberi Dentro. Out of the woodwork, and they whispered into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Never know. Eccovi, bentornati dopo la pausa musicale. Antonella, ci parli della mia sostanza preferita fino a qualche mese fa, che è il caffè. Il caffè, ma Caterina, sai cosa contiene il caffè? Immagino tu dica la caffeina, no? Giusto? Ecco, questa era la tua bevanda preferita. Immagino ti sia piaciuto anche il sapore, però la caffeina ha fatto il suo lavoro, perché la caffeina è una sostanza naturale che si ricava trattando le piante del caffè, ovviamente, ma non solo del caffè, del cacao, del tè, guaranà e mate. E dal punto di vista chimico è identico alla teina. La differenza tra i nomi è dovuta al fatto che la sostanza è stata individuata in due momenti differenti. La prima volta nell'Ottocento, a partire dai chicchi di caffè, mentre la seconda un po' più tardi nelle foglie di tè. Allora, indagando un po' più da vicino i miei vizi, che condivido con gran parte degli italiani, condividevo, che effetto ha la caffeina? Allora, guarda, ti spiego un attimo come funziona, perché la caffeina si lega ad alcuni recettori delle membrane cellulari, inducendo un incremento dei livelli di adrenalina e noradrenalina, stimolando così il sistema nervoso simpatico e provocando di fatto un aumento del battito cardiaco e dell'afflusso di sangue ai muscoli. La principale differenza tra caffeina contenuta nel tè e quella del caffè riguarda in realtà la durata del suo effetto stimolante. Nel tè agisce lentamente per un periodo di tempo prolungato, grazie alla presenza di altre sostanze che rallentano l'assorbimento, mentre nel caffè fornisce una scarica immediata di energia, e noi lo sappiamo bene perché consumando il caffè, in effetti al mattino, se ci pensi, dopo un caffè, forse tu non te lo ricordi più, comunque funziona così, che proprio ti dà quella scarica, quella, diciamo, quella energia per affrontare la giornata. Il suo potere è invisibile ma pervasivo, e lo dice Roland Griffiths, uno dei maggiori esperti al mondo di sostanze che alterano l'umore, nonché principale responsabile della diagnosi di astinenza da caffeina, inclusa addirittura nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, testo di riferimento per le diagnosi psichiatriche. E Griffiths sostiene che per la maggior parte delle persone è assolutamente normale assumere caffeina. In realtà noi lo sappiamo, perché io continuo a farlo, Circa il 90% degli esseri umani infatti la consuma regolarmente, il che la rende la sostanza psicoattiva più usata al mondo e l'unica che diamo abitualmente anche ai bambini, perché in alcune bibite, tipo alcune bevande gassate appunto, la contengono e pochi di noi la considerano una droga e tantomeno considerano l'uso quotidiano che ne facciamo una dipendenza. Quindi la caffeina è così onnipresente da farci dimenticare che essere sotto l'effetto della caffeina non è una condizione normale, ma in realtà è uno stato alterato. È uno stato che praticamente condividiamo tutti e questo ovviamente lo rende invisibile. Tra l'altro gli scienziati hanno spiegato i possibili sintomi dell'astinenza da caffeina, anzi ti chiedo Caterina se anche tu abbia poi subito un poco questa astinenza, che potrebbe essere mal di testa, affaticamento, letargia, difficoltà di concentrazione, calo della motivazione, irritabilità, intenso disagio, perdita di fiducia e disforia. Sì, sì, te le confermo. Io l'ho fatto 5 mesi fa e effettivamente molto affaticamento e molta sonnolenza. Ma comunque è difficile cominciare una giornata senza il caffè, no? Eh sì, Caterina, perché la prima tazza di caffè o tè del mattino deve la maggior parte del suo potere e anche della gioia che ovviamente ci procura, non tanto alle sue proprietà euforiche e stimolanti, ma al fatto che placa i sintomi emergenti dell'astinenza, perché la caffeina si propone quotidianamente come la soluzione ottimale al problema creato dalla caffeina stessa. E comunque il rapporto dell'umanità con la caffeina è sorprendentemente recente, non è una cosa che affonda insomma nella storia più antica, però non è esagerato affermare che questa molecola ha cambiato il mondo in realtà. Se ci si pensa un attimo su, forse anche estremizzandolo un poco, caffè e tè hanno introdotto una modifica della condizione mentale, affinando le menti che erano state annebbiate dall'alcol, liberando le persone dai ritmi naturali del corpo e del sole, rendendo possibili nuovi tipi di lavoro e probabilmente anche nuovi tipi di pensiero. Ma almeno c'è qualcosa che fa bene di questa caffeina? Qualche vantaggio? Allora, attualmente nel mondo scientifico, per fortuna direi, prevale un'idea rassicurante. Gli studi fanno pensare che il caffè e tè possano portare alcuni benefici importanti, purché ovviamente non siano consumati in modo eccessivo. Il consumo regolare di caffè è associato a un ridotto rischio di contrarre diversi tipi di cancro, tra cui quello al seno, alla prostata, al colon retto e all'endometrio, malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, Parkinson, demenze, forse anche addirittura depressione e tendenze suicide. Però qui starei un attimo attenta perché dipende dalla quantità. Se la quantità è alta, addirittura possono produrre ansia, nervosismo e tra coloro che ne bevono 8 o più tazze al giorno il tasso di suicidio aumenta, quindi va preso effettivamente con un po' di attenzione. Ma a questo punto rilancio rivolgendomi alle persone ristrette, quanti caffè bevete? Che tipo di caffè bevete? Che cosa vi piace preparare? Come lo preparate? Visto che ci state scrivendo e siamo contentissime, diteci qualcosa in merito al vostro caffè. E per rimanere in tema di caffè, andiamo in Brasile e ascoltiamo Nanan, Casa da Floresta. E poi, a proposito, vi anticipo che ascolteremo appunto ancora Antonio Homero, l'intervista fatta da Antonio Homero dell'associazione Mai più solitudine. A dopo. E andar de pé no chão. E eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. E vai ter trilha pro rio, cachoeira, cascata no pé. Saíra bem piseira, espreita na procura do jantar. Abelha nativa, fazendo comerinha, colhendo pra lá. Bentornati di nuovo a tutte e tutti i nostri ascoltatori su Liberi Dentro di Radio TV. Riprendiamo il filo dell'intervista col nostro ospite per tutta la settimana con noi, Antonio Omero. Ciao Antonio e bentornato. Ciao Caterina e un saluto a tutti i nostri ascoltatori, insomma, o spettatori. Il nostro Antonio Omero, ripeto, per chi non ci ascoltasse da ieri, editore, ex insegnante, autore di guide di pubblica utilità, abbiamo toccato ieri con te il tema della scuola e della fuga dei giovani dalla Sicilia, ma siccome non siamo riusciti a concludere quello che stavi dicendo, hai scritto sì. Anche due poesie tu su questo, no? Sì, io volevo solo leggere due brevi poesie. Uno che quanto riguarda i figli, io sono papà e anche nonno. I figli, secondo Gilbran, che tu conoscerai, un grande poeta, mi pare libanese, scriveva: i tuoi figli non sono figli tuoi, sono i figli e le figlie della vita stessa. Tu li metti al mondo, ma non li crei. Sono vicino a te, ma non sono cosa tua. Puoi dare loro tutto il tuo amore, ma non le tue idee. Tu puoi dare dimora al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita nella casa dell'avvenire, dove a te non è dato entrare neppure con il sogno. Puoi cercare di somigliare a loro, ma non volere che essi assomiglino a te, perché la loro vita non ritorna indietro e non si ferma ieri. Tu sei l'arco che lancia i figli verso il domani. Ecco, noi non siamo proprietari, noi dobbiamo aiutarli in un orientamento sano, mirato, oculato, in base alle loro caratteristiche. Ok? E mi fermo qui. È bello perché tutto questo fa parte anche dell'orientamento mirato anche nel tuo progetto dell'orientamento per la scuola. Esatto, scolastico, che io ho creato agli inizi degli anni 90. Okay? Poi una bellissima poesia, io l'ho scritta per la mia terra e quindi saluto tutti gli amici siciliani che ci stanno vedendo, e si intitola Sicilia, terra di fuoco. Sicilia, terra di fuoco, fatta di suli, di mari e d'amori. Non canta lo sogno di lupiscatori, canesci di notti a vasare lupisci. Pisci frisco, caballa na tavola, contento di essere friuto, allagliato o arrustuto. Biniritto, rotovino sincero, profumato d'insolia. Sicilia, terra di fuoco, fatta di suli, di mari e d'amuri, saluta l'omine intelligenti, cafano canusciri, agli furasteri, utò sapuri, utò ciauro, a maescia di lutò mangiari. Lassa un ricordo di la zagara, cato frutta sapurusa di campagna. Sicilia, Sicilia mia, terra impertinenti di piaceri. Che bella, bellissima. Sì. Questa è molto bella, sentita, dedicata ai ristoratori prevalentemente, ma a tutti coloro che possono amare la Sicilia. Della Sicilia noi abbiamo fatto anche un portale con comunicazione globale che è buonenotiziedallasicilia.tv. E proprio su questo sito Buone Notizie dalla Sicilia ho letto dell'iniziativa Premio Uomo e Donna Siciliana. Che cos'è questo premio? Allora, il premio Donna Siciliana parte per primo nel 2012, ok? Perché io ho pensato che invece di premiare tette e culi della donna si può premiare il cervello, Per cui ho inventato un premio, ho detto: noi abbiamo delle donne siciliane eccezionali da un punto di vista artistico, inutile che ti vada a fare i nomi, giusto? E allora mi è venuto spontaneo dire io voglio premiare la donna siciliana. Ecco che è nato il premio Donna Siciliana, che ha avuto un successo strepitoso. Nasce nel 2012 a marzo, durante un diluvio universale a Catania, presso il Teatro San Giorgi di Catania, il più antico teatro barocco bellissimo di Catania. E poi si va, inutile andare a fare un elenco, perché la selezione delle persone la fa il popolo siciliano attraverso la rete. Quindi segnalano delle creature femminili, delle donne, le qualità, la maestria, eccetera, eccetera, e quindi fanno tipo una presentazione. Poi noi, io, la direttrice artistica, la direttrice web, Rosanna Lamalfa, la direttrice artistica Carla Basile, andiamo a scegliere le 20 donne siciliane. Sono 20 le donne per ogni edizione. Noi purtroppo ci siamo fermati al 2019, però, non edizione, per il fatto della pandemia. Perché io purtroppo sono contro il Green Pass, sono contro queste cose, non ne parliamo oggi ovviamente, ma allora comunque io ho premiato più di 140 donne siciliane. E c'è una commissione che sceglie le donne da premiare, come decidete? La commissione è formata dal popolo siciliano, e dal direttore artistico, dalla direttrice artistica, direttrice web marketing e il direttore generale che sono io. E poi abbiamo anche un mio figlio che come avvocato mette pace, e quindi, perché mio figlio è anche avvocato, il piccolino, quello che è commissario è anche avvocato, per cui lui è il pacere tra chi si scontra nella riunione finale. Di contro c'è anche il premio Uomo Siciliano, vero? A questo punto, una volta che abbiamo avuto questo enorme successo, ricordiamo i siti di chi vuole andare a vedere, premiodonnasiciliana.com e premiouomosiciliano.com, dove si vedono tutte le edizioni, anche in video. L'uomo dice, ma perché io no e la donna sì? Giusto? Quindi paritario, siamo riusciti a fare le prime due edizioni, abbiamo anche premiato il famoso astronauta catanese Palmisano, quello che è, e quindi abbiamo avuto notevoli soddisfazioni, ecco. E allora abbiamo dovuto fare anche piacevolmente Uomo Siciliano. E a questo punto tutti mi dicono, ma perché tu premi gli altri e a te mai danno un premio dopo tutte le cose che hai fatto, no? Allora io ho ricevuto il premio Eccellenza Siciliana, lo riceverò l'anno prossimo a Cefalù. La cosa bella di questo premio, mi pare di capire, è che le persone vengono candidate dagli altri, quindi uno non è che si autocandida per ricevere il premio, e quindi è anche una forma di umiltà, come dire, sono gli altri che... è anche democratico, diciamo, ecco. Quindi va bene così, abbiamo avuto notevole successo. Abbiamo il patrocinio anche della presidenza della regione siciliana, ma soldi no, ok? Soldi sempre con quel contributo volontario degli sponsor che io vado a raccogliere casa per casa, come si suol dire, con le elezioni americane, tipo qua. È un vulcano di idee, Antonio. Ritorneremo con te domani, ma per rimanere in tema, siccome già il tempo ci porta alla fine dell'intervista, lanciamo Mia Martini con Donna. Donna. Anche questa è una bellissima canzone. Ascoltatela, grazie, ci rivediamo tra poco per i saluti di fine puntata. Grazie Antonio, a domani. Grazie a voi, grazie. Quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri e quelli godono come muri. Donna, come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna, come un mazzo di fiori. quando il freddo gli arriva al cuore, quello ormai non ha più tempo e se n'è andato soffiando il vento. Donna, come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende. E rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale. Siamo al momento dei saluti finali e per rimanere in tema di sostanze, diciamo, che ci eccitano, parleremo della rubrica a seguire con la rubrica dell'Equipe Sanitaria del Carcere che collabora con noi. Parleremo del consumo di sigarette, come disassuefarsi da questa sostanza. Infatti verrà intervistato il dottor Astorino e la sua equipe sul tema del fumo di sigaretta. Scopriremo insieme da che cosa è composta la sigaretta, come funziona la dipendenza da nicotina e i motivi per cui iniziare un percorso di disassuefazione. E come farlo, chiaramente. Scriveteci, redazione liberidentro@gmail.com e come al solito un saluto da me che sono Caterina, Antonella Cortese, Nea Flacco e la nostra tirocinante Diana Bota. A domani, ciao! Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.